Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. Il candidato del centrosinistra ha battuto Pietro Fontanini, appoggiato dal centrodestra con il 52,8% delle preferenze contro il 47,2% dell'avversario. Sentiremo le voci dei due contendenti e i commenti delle formazioni politiche. De Toni ha vinto coalizione larga in contesto civico dove ci si può trovare d'accordo. Fontanini, la sconfitta si spiega con la mancanza di 3.000 voti all'appello di persone che non sono tornate a votare al secondo turno. Pronti i nomi della nuova giunta regionale del rieletto presidente Massimiliano Fedriga. Giovedì sarà resa nota l'attribuzione delle deleghe. Oggi è il giorno del tavolo romano sul futuro di Varzila a Trieste. Al Ministero delle Imprese il primo confronto tra aziende, istituzioni e parti sociali dopo la presentazione delle offerte per la sede di Bagnoli. Proseguono a tutto campo a Udine le indagini sull'uccisione di Luca Tisi. Non si scarta alcuna pista, ma l'efferatezza con cui il senza tetto è stato assassinato, con decine di coltellate, il taglio alla gola e un colpo alla nuca, fa pensare a un'esecuzione, forse a una vendetta premeditata. Colla sugli stipiti delle porte della casa da svaligiare, un cittadino georgiano arrestato dalla polizia di Udine. Immigrazione, lo stato di emergenza decretato dal governo comporta misure urgenti, a cominciare da nuovi hotspot. Carenza d'organico ed effetti della riforma del settore al centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria. Il bilancio delle corti regionali è positivo, ma l'arretrato continua a pesare. Elena Cotugno è la protagonista dello spettacolo Giacomo, dedicato a Matteotti, in scena nei prossimi giorni al nuovo teatro comunale di Gradisca. A presentarlo lo storico Mauro Canali, uno dei principali studiosi di Matteotti e del fascismo. Le 7:20 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e Lara Zani, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 18 aprile. In apertura, come sempre, diamo uno sguardo alla situazione del meteo con le previsioni per oggi. La nuvolosità è variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste ci sono 14 gradi, a Gorizia 9 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 7 gradi, a Piancavallo 4 gradi, a Forni di Sopra 3 gradi e mezzo, 3 gradi a Viso e Tolmezzo, 5 decimi di grado sotto lo zero a Sappada, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 5 decimi di grado positivi, sulla costa a Lignano 12 gradi, a Grado 13. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo variabile, soffierà bora, in genere moderata sulla costa e sulle zone orientali, e vento da nord-est moderato anche in quota. Possibili raffiche anche sostenute, specie a Trieste, ma saranno possibili anche dei cali di vento, specie nelle ore centrali della giornata. Possibili piogge sparse, in genere deboli e, seppure con bassa probabilità, anche dei locali rovesci. In apertura di giornale dunque l'esito del voto di ballottaggio per il sindaco del comune di Udine, che ha visto la netta vittoria del candidato del centrosinistra Alberto Felice De Toni, in rimonta rispetto all'esito del primo turno sullo sfidante Pietro Fontanini, appoggiato dal centrodestra. De Toni, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione Italia Viva, Renew Europe. De Toni sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra ha ottenuto il 52,8% delle preferenze, che lo designano quindi nuovo sindaco del comune di Udine, contro il 47,2% raggiunto dall'avversario Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità Civica, Lega FVG per Salvini Premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia e Unione di Centro. Nel primo turno De Toni aveva ottenuto il 39,7% delle preferenze contro il 46,25% di Fontanini. L'affluenza finale è stata del 44%, 3 punti in meno rispetto al turno di ballottaggio del 2018, era stata del 47,20% e 10 punti in meno rispetto al primo turno 2 settimane fa, quando, lo ricordiamo, si votava anche per la regione. Ma sentiamo ora le parole del vincitore Alberto Felice De Toni dopo la vittoria. Sono ovviamente molto lusingato di questo risultato, è stato un risultato, come avete visto, alla fine di misure, però abbastanza chiaro. Mi ha telefonato Fontanini, mi ha fatto i complimenti, io l'ho ringraziato per la correttezza della campagna elettorale e gli ho detto che cercherò di creare in Consiglio Comunale un clima di collaborazione, perché adesso abbiamo bisogno di fare il bene della città e di tutto il Friuli. E lui me l'ha assicurato, e penso che sia l'epilogo più bello di questa campagna elettorale, che è stata vera, è stata dialettica, ma è stata sempre corretta. Abbiamo sempre bisogno di dare l'esempio alle nuove generazioni e anche a chi è appassionato di politica. Abbiamo una grande opportunità di ripartire con dei progetti di sviluppo della città. Abbiamo bisogno dell'intelligenza e della competenza di tutti, e come ho detto anche in campagna elettorale, più che un conduttore alla meta vorrei essere un costruttore di contesti, un contesto dove tutti possono partecipare e portare i loro contributi. L'intelligenza è distribuita e noi dobbiamo coglierla in tutte le persone di buona volontà. A chi dedica la vittoria? Beh, la dedico alla città e la dedico anche alla mia famiglia, che abbiamo visto poco in questi giorni, in queste settimane, e però voglio dedicarla appunto alla capitale del Friuli. Penso che adesso chiederò, appena abbiamo istituito la giunta, un incontro anche con Federica. Credo che le istituzioni abbiano il dovere di collaborare per il bene del territorio, e la farò insieme alle varie associazioni di categorie, associazioni di tutti i tipi, perché appunto non c'è solo il sindaco, c'è l'intero territorio. Io voglio lavorare per una coesione territoriale, perché l'unione fa la forza. Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal Partito Democratico la segretaria nazionale Elly Schlein saluta la vittoria di De Toni con grande soddisfazione. Una vittoria, dice Schlein, costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Complimenti e auguri al nuovo sindaco di Udine arrivano anche dall'ex segretario del PD e deputato Enrico Letta. Sentiamo ora le parole dello sconfitto sindaco uscente Pietro Fontanini dopo l'ufficializzazione del risultato finale che lo ha visto superato dall'avversario De Toni al ballottaggio. Al terzo polo sono tutti compatti, vediamo adesso, hanno in mano loro la città, vediamo che cosa faranno. Io spero poca ideologia e molte cose concrete come abbiamo fatto noi. Le elezioni regionali sono appena state fatte, ha vinto la grande il centrodestra, ha vinto Federica, che adesso Udine, perché ha vinto De Toni, diventa il polo della sinistra per la riscossa, la vedo un po'. Una dichiarazione molto molto ambiziosa. Ho realizzato le cose a Udine. Di Friuli forse ho parlato troppo poco, perché ho detto solo che Udine è la capitale del Friuli, che fa da riferimento a un territorio molto importante, ma ho parlato soprattutto delle tantissime opere fatte in questa città. Erano anni che non si facevano opere così importanti e così anche impattanti, certi, sotto certi aspetti. Io non ho posizioni ideologiche, probabilmente loro le tireranno fuori. La cartina tornasole sarà il bilancio 2023. Noi l'abbiamo costruito, lo abbiamo finanziato e pronto da attuare. Ecco, questa sarà la verifica. Noi siamo pronti chiaramente a collaborare per dare attuazione a questo programma. Vediamo se l'attuale maggioranza è della nostra stessa idea. Un'autocritica c'è rispetto ai 5 anni del suo mandato o anche rispetto alla stessa campagna elettorale? No, rammarico io non ne vedo, nel senso che ho fatto tante cose per la città e vedo una città molto rinnovata, una città molto viva. Speravo un premio, un riconoscimento da parte dei cittadini udinesi di questo risultato. Un'ultima domanda, si è sentito sufficientemente appoggiato dalla politica regionale e nazionale in questa campagna? Sì, molto molto appoggiato, anzi devo ringraziare il ministro Salvini, poi i governatori delle regioni più importanti, Fontana, Zaia, sono venuti qui a Udine ad aiutarmi, a darmi forza, e in particolare il governatore Federica, che veramente si è speso per la mia rielezione. Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ringraziando Pietro Fontanini per quanto fatto con impegno e passione in questi 5 anni alla guida del Comune di Udine, auguro buon lavoro al neoeletto sindaco Alberto Felice De Toni, che avrà l'onore di governare la città. Così si è espresso il governatore Federica a commento dell'esito del ballottaggio delle elezioni comunali di Udine, che ha segnato la vittoria ad Alberto Felice De Toni. Sentiamo ora le reazioni per il centrosinistra della deputata del PD Deborah Serracchiani e di Massimo Moretuzzo, che era il candidato alle ultime regionali per la presidenza. Da Udine anche in passato siamo ripartiti, si riparte quindi da Udine ed è un centro-sinistra molto forte, allargato, che è riuscito a coinvolgere anche una bella fetta di civismo, insomma veramente un segnale molto bello. Le alleanze pagano, è importantissimo, soprattutto di fronte a una coalizione di centrodestra che si presenta unita e che però, diciamo così, questa volta è stata battuta perché è stato scelto un ottimo candidato, ma soprattutto siamo riusciti a stare insieme, ad allargare, ad essere determinati, convincenti, anche ad avere un bel programma. Un risultato io credo straordinario, perché in un momento storico in cui il vento di destra sta soffiando forte, la città di Udine ha dimostrato che è possibile cambiare, è possibile innescare dei processi di innovazione, di cambiamento, e quindi Udine per il Friuli Venezia Giulia intero credo rappresenti un punto di partenza importante per tutta la nostra compagine. Quindi complimenti ad Alberto Felice De Toni, complimenti a tutti quelli e quelle che ci hanno creduto fin dall'inizio. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal terzo polo arrivano i commenti di Isabella De Monte, deputata friulana di Azione, che attribuisce la vittoria di Tetoni a una proposta riformista e pluralista, capace di sintetizzare esperienze e percorsi diversi attorno a un candidato generoso e preparato. E quello del triestino Ettore Rosato, deputato di Italia Viva, che dice: «Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto». Di un bel lavoro di squadra, capace di ribaltare i pronostici, parla il senatore triestino del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, mentre il coordinatore provinciale udinese Cristian Sergo si dice contento per Ivano Marchiol e nel contempo fiducioso per un percorso comune fortemente voluto. Udine diventerà un esempio di amministrazione attenta alle esigenze dei suoi abitanti e all'ambiente, commentano Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, portavoce nazionali di Europa Verde e deputati di Alleanza Verdi e Sinistra. Auguro buon lavoro al sindaco De Toni, certo che coinvolgerà le opposizioni su importanti decisioni per la città di Udine. Dal centrodestra arriva la reazione di Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d'Italia, che augura buon lavoro al sindaco De Toni e si dice certo che coinvolgerà le opposizioni su importanti decisioni per la città di Udine. Alessandro Cattaneo, vice coordinatore nazionale, responsabile dell'organizzazione territoriale di Forza Italia, evidenzia invece come De Toni sia stato eletto con meno voti di quanti ne abbia ottenuti Fontanini al primo turno. È evidente, secondo Cattaneo, che esiste un problema nella legge elettorale dei sindaci che va rivisto. Restiamo alla politica, ma andiamo in regione, saldamente in mano al centrodestra. Il rieletto presidente Massimiliano Fedriga avrà con sé nella giunta regionale molti assessori già al lavoro nella precedente legislatura. Ieri si è tenuto un nuovo vertice di maggioranza per mettere a punto la squadra che sarà presentata giovedì. Entro giovedì o venerdì comunichiamo. Però oggi era la giornata dei nomi e delle deleghe. No, non ancora, nel senso che la giornata dei nomi e delle deleghe è probabilmente entro le prossime ore, non esattamente oggi. Di poche parole Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, all'uscita di quello che doveva essere il secondo decisivo vertice di maggioranza per definire nomi e deleghe della nuova giunta del Friuli Venezia Giulia. Giovedì mattina sarà il neo eletto presidente della regione Massimiliano Fedriga ad annunciare la sua squadra. Sembra che i nomi usciti finora siano confermati, ma non le deleghe. In gran parte ritorna dunque in campo la squadra del 2018 e quindi bis per Alessia Rosolen, Pierpaolo Roberti e Sergio Bini, legati al nome del presidente stesso, e poi per la Lega Barbara Zilli, Stefano Zanier, Sebastiano Callari, per Fratelli d'Italia Fabio Scoccimarro, Mario Anzil e Cristina Amirante, questi ultimi le due new entry. Riccardo Riccardi per Forza Italia sembra riconfermato assessore, ma anche in questo caso non è certa la delega alla sanità. Difficile la riconferma invece a vice governatore, visto che con ogni probabilità il ruolo andrà a Lega o Fratelli d'Italia. Chi tra questi due partiti non avrà la vicepresidenza prenderà la presidenza del Consiglio regionale. E quelle 65.000 preferenze incassate da Fedriga con il suo nome potrebbero farsi valere poi con la scelta di persone chiave in altre sedi. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora il mondo del lavoro con l'avvertenza Varsila. Alle 14 è convocato a Roma in sede ministeriale un nuovo tavolo di trattative dopo che venerdì scorso erano scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di eventuali acquirenti dell'impianto triestino. A farsi avanti erano stati due soggetti, H2 Energy con Mitsubishi e il Christoph Group. Oggi i nomi diventeranno ufficiali. Al tavolo, oltre a rappresentanti ministeriali e di Varsila, sono attesi tra gli altri il presidente della regione Fedriga, esponenti sindacali nazionali, territoriali e dell'RSU. Domattina sempre a Roma invece in programma il coordinamento nazionale di Varsila, temi al centro del dibattito strettamente collegati a quanto emergerà oggi dal tavolo ministeriale. E sempre oggi è in programma ad Aurisina un vertice, forse decisivo per il futuro di Castelreggio per quanto riguarda la gestione della struttura balneare di Sistiana. Nel pomeriggio è in programma l'incontro fra la Giunta e la società Alposta sulla concessione ventennale dal 2024. Intanto esce il bando per l'estate. Il tema immigrazione ora. La creazione di un hotspot per identificare rapidamente i migranti appena giunti in Italia diventa più concreta dopo la nomina del nuovo commissario per l'emergenza migranti, che potrà individuare anche nuovi spazi per l'accoglienza. Dall'ordinanza nazionale del governo sui migranti, diramata alle prefetture delle regioni che l'hanno sottoscritta, il via libera ufficiale a gestire più rapidamente, in deroga alle normali procedure, le criticità emerse con il moltiplicarsi degli arrivi. Spetterà al prefetto di Trieste e commissario di governo per il Friuli Venezia Giulia, Signoriello, in coordinamento col neocommissario per l'emergenza migranti Valenti ed intesa col presidente della regione Fedriga, trovare nuovi spazi per l'accoglienza, compreso l'annunciato hotspot dove ospitare ritirare i migranti dalla rotta balcanica prima di procedere con rapidi trasferimenti. Uno spazio, questo, la cui collocazione resta ancora in ballo tra Udine e Trieste. Alla gestione dell'emergenza è previsto concorrano anche le forze armate e di polizia, non per il momento la protezione civile. 5 milioni già a disposizione per dar seguito al provvedimento. In attesa delle circolari esplicative, un primo confronto per una sua interpretazione condivisa sarà possibile al vertice tra i quattro prefetti convocato per oggi pomeriggio in prefettura a Trieste. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora la cronaca: c'è stata una fuga di gas nella tarda serata di ieri a Farra di Sonzo. Poco prima delle 23, in seguito a un incidente stradale in via Gorizia, sono state danneggiate le condutture del gas e si è resa necessaria la chiusura temporanea della strada e l'intervento dei vigili del fuoco di Gorizia. La situazione è stata risolta intorno all'1. E ora gli sviluppi delle indagini sull'omicidio a Udine di Luca Tisi. Si attende l'esito degli esami autoptici per chiarire meglio cause e modalità dell'uccisione del senzatetto. Sarà l'autopsia effettuata dal medico legale Carlo Moreschi nei prossimi giorni sul corpo di Luca Tisi, ucciso sabato nella galleria dell'ex cinema Capitol tra via San Daniele e viale Volontari della Libertà, a fornire alcune risposte. Certo è che le modalità particolarmente efferate dell'omicidio, come è stato rimarcato dal procuratore di Udine Massimo Lia, fanno pensare che si sia trattata di una esecuzione mirata o di una vendetta portata a termine con accanimento più che in un'aggressione. Anche quel taglio alla gola inferto a Tisi, oltre alle decine di ferite sul corpo e oltre al colpo alla testa, sono attentamente valutati dagli inquirenti, che stanno lavorando senza sosta alla scoperta del o dei responsabili. Gli agenti della squadra mobile di Udine hanno lavorato senza scartare nessuna pista. Al momento si continua a lavorare a 360 gradi e questa è una fase molto delicata delle indagini. Gli agenti della mobile, dopo la scoperta del cadavere, continuano a setacciare il quartiere, i negozi, il vicino parco, alla ricerca di indizi, testimoni e di eventuali filmati. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Un cittadino georgiano di 31 anni è stato arrestato per resistenza, violazione di domicilio e reingresso illegale sul territorio nazionale ed è ferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ricettazione, in seguito a un intervento delle volanti della questura udinese in via San Valentino. L'uomo, notato mentre si introduceva furtivamente in un condominio, è stato sorpreso mentre scavalcava un cancello per uscire dal cortile e darsi alla fuga. Due poliziotti rimasti all'esterno dell'edificio lo hanno inseguito e bloccato nei pressi del teatro, nonostante la resistenza opposta. In sede di convalida dell'arresto, il GIP, sussistendo l'esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, ha disposto per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Un cinquantenne è stato soccorso dal personale medico e infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato negli spazi di un'attività produttiva di Gemona. Mentre stava operando con una smerigliatrice si è procurato una profonda e grave lesione a una mano. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Un bambino di meno di 10 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico e di pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Gorizia in via Zara, all'incrocio con via San Michele. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il bambino è stato investito da una vettura e a seguito dell'impatto è stato sbalzato per alcuni metri riportando un trauma al capo. È stato ritrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Carenza di organico ed effetti della riforma del settore al centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria. Il bilancio delle corti regionali è positivo, ma l'arretrato continua a pesare. Il nuovo anno giudiziario della giustizia tributaria sarà il banco di prova per la riforma introdotta dalla legge 130 dell'agosto scorso, che trasforma le commissioni in corti di giustizia tributaria e introduce la figura del magistrato tributario di ruolo. L'auspicio è che i nuovi bandi contribuiscano a risolvere il problema della carenza di organico, che ha prodotto un impatto importante soprattutto sull'attività delle corti di secondo grado, dove si registrano 1.367 pendenze su un totale di 2.178 procedimenti. I dati si riferiscono al periodo che si conclude il 31 dicembre 2022. Qui i componenti sono 10 a fronte di una pianta organica di 18, mentre la percentuale di scopertura in primo grado si attesta al 41%. Il presidente della Corte è Oliviero Drigani. Si vorrebbe che i giudici non siano un po' a part time, no? Io sono magistrato ordinario e nello stesso tempo faccio magistrato tributario e con me praticamente il 70% degli organici. Non so se questo sia una scelta valida, perché portarsi dietro l'esperienza che si ha nella propria professione d'origine è sempre importante. Vediamo come si riescono a conciliare queste due esigenze. Un altro aspetto importante che contribuisce al bilancio definito dal Presidente soddisfacente è la ripresa dei processi in presenza e la loro completa digitalizzazione. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo più di 12.000 miglia percorse e 40 giorni di navigazione dal porto di Littleton, la rompighiaccio Laura Bassi è arrivata al porto di Ravenna, completando così ufficialmente la sua missione nell'ambito della campagna oceanografica della 38esima spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. La nave, di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, ha riportato in Italia i campioni scientifici raccolti in Antartide e quest'anno si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a sud dell'Antartide, raggiungibile via mare. Oltre ai campioni e ai materiali provenienti dalle attività scientifiche svolte presso la Stazione Italiana Mario Zucchelli, la base Concordia, e quelli prelevati nel corso delle due campagne oceanografiche, sono trasportati dalla nave anche i primi campioni di ghiaccio del progetto europeo coordinato dall'Istituto di Scienze Polari del CNR, che vede la partecipazione di 10 paesi, tra cui, per l'Italia, anche l'Università Ca' Foscari e l'ENEA. Investimenti e possibili sinergie economiche e industriali tra i due paesi sono questi i principali temi che saranno affrontati nel corso dell'incontro ufficiale in Confindustria Udine dell'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba. Il diplomatico sarà accompagnato da una delegazione composta da Graziano Bertolli, console onorario del Messico, e Cécile de Moléon, executive director dell'Associazione Economica del Messico in Italia. Alle 11 la delegazione si incontrerà a Palazzo Toriani con imprenditori e autorità del Friuli Venezia Giulia. Ad accogliere l'ambasciatore per Confindustria Udine la vicepresidente Anna Mareschi Danieli. Passiamo allo sport con il calcio. Presentato nel municipio di Monfalcone il 19esimo torneo delle Nazioni 2023 e la 7ª edizione del Female Football Tournament, che si terranno dal 25 aprile al 1 maggio in diversi impianti sportivi regionali, coinvolgendo anche le vicine Austria e Slovenia. A Monfalcone si disputeranno due partite. La prima è il 27 aprile presso lo stadio di Via Boito, che vedrà contrapporsi le nazionali maschili under 15 di Romania ed Emirati Arabi, mentre la seconda è il 29 aprile presso l'impianto sportivo Kosulic, che vedrà gareggiare la nazionale femminile italiana contro quella della Macedonia del Nord. Sarà Mauro Canali, il maggiore studioso di Matteotti, a introdurre la messa in scena di Giacomo, una liturgia scenica sul conflitto fra violenza e libertà proposta alla Sala Bergamas di Gradisca di Sonzo nell'ambito della rassegna Innesti, connessioni teatrali affatto prevedibili. Canali, assieme al regista dello spettacolo Giampiero Borgia, introdurrà oggi la pièce teatrale in scena domani e dopodomani, con un incontro pubblico coordinato da Adriano Osso, la presidente di Estoria, alle 12 al nuovo teatro comunale di Gradisca di Sonzo. Ne abbiamo parlato con lo stesso Canali. Sono arrivati in maniera abbastanza avventurosa. Fino ad allora il delitto Matteotti, dal punto di vista storiografico, era stato affrontato senza la consultazione di documenti che noi chiamiamo fonti primarie, cioè documenti prodotti in quel periodo. Io però trovai, attraverso lo studio delle carte Salvemini, capii che Salvemini, quando era esule a Londra, aveva a disposizione una copia di tutti gli atti istruttori. Mi recai a Londra e lavorai su una copia degli atti istruttori completa. Ecco perché il mio lavoro, quando uscì, fu accolto con interesse, perché si trattava del primo lavoro che faceva riferimento e si basava sugli atti istruttori, sulla produzione della magistratura nelle indagini, diciamo, che seguirono al delitto. Lei introduce con il suo incontro uno spettacolo teatrale dedicato a Matteotti con due interventi di Matteotti in Parlamento. Qual è l'importanza di quegli interventi? Personaggio, diciamo, di una integrità morale unica, lui fu l'avversario più accanito e più coerente del fascismo. Ora, gli interventi del 21 sono interventi che denunciano sostanzialmente questa violenza, la maschera di legalità dietro la quale si nascondeva il fascismo. Sono denunce che caratterizzano il fascismo per quello che era. Poche voci in Parlamento ci seppero dire che cosa il fascismo stava sviluppando nel paese. La denuncia del 24 assume un altro aspetto. Matteotti non solo denuncia il fascismo come ha sempre fatto, denuncia anche i brogli e le violenze che erano state commesse dal regime per vincere le elezioni del 6 aprile del 24. L'incontro pubblico con Canali si terrà alle 18 al nuovo teatro comunale di Gradisca di Sonzo. Il Messaggero Veneto di Udine dedica naturalmente la prima pagina al nuovo sindaco. Udine, De Toni strappa il comune. L'ex rettore eletto sindaco, il candidato del centrosinistra, ha ottenuto 18.576 voti, 2.003 in più dell'uscente Fontanini. Poi l'editoriale di Paolo Mosanghini, un contrappeso al centrodestra, l'analisi dei numeri, una realtà che rimane divisa in due e le reazioni. Il centrosinistra festeggia dopo 5 anni all'opposizione. Il vincitore, sanità, rifiuti e quartieri, queste saranno le nostre priorità. Lo sconfitto, mi dispiace non aver saputo comunicare le cose fatte. E infine la composizione del nuovo consiglio comunale. In alto le indagini sull'omicidio del Senzatetto, gli inquirenti, ipotesi di premeditazione. Un anno fa fu smantellato un giro di droga nei garage del condominio Alpi. Di piede il ricordo di Tiziano Testitori a 50 anni dalla morte, l'idea rivoluzionaria dell'autonomia. Il Gazzettino richiama in prima pagina nazionale l'esito delle elezioni comunali a Udine, ribaltone De Toni, Udine svolta a sinistra, e le indagini sull'omicidio di Luca Tisi. A colpire non è stata una banda. Il titolo nel primo piano è il centrodestra diserta e Udine va alla sinistra, con le dichiarazioni dei due contendenti. Il neosindaco scherza sul suo nome, ora sì che sono felice. Lo sconfitto lo chiama, collaboriamo. In cronaca ancora De Toni, dedico la vittoria a tutta la città e l'immagine della festa, mentre a Trieste si va verso la formazione della giunta regionale, l'ultima contesa per 2 assessorati. Per il caso del Senzatetto ucciso, sospetti sul ciclista vicino alla Roggia, inquadrato dalle telecamere in orario compatibile con l'omicidio di Luca Tisi. Intanto in via San Valentino furti con la tecnica della colla, arrestato 31enne giorgiano. Di stampa la sanità, tante iniziative per la salute della donna e i migranti, Fedriga, risposta corale. Di piede lo sport per il calcio udinese al buio, maledetti rigori. Per la pallacanestro, Gesteco, la faccia bella del basket. Per il ciclismo, il Cycling Team Friuli ingaggia il russo Ermakov. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste, si parla di commercio, di direttiva Bolkestein. Così cambieranno i 99 chioschi e i mercati triestini. Il comune prepara le nuove regole in vista della gara, chi sparirà e chi no. Priorità a prodotti tipici e biologici. Giovedì la nuova giunta, confermati agli uscenti le deleghe, nuovo vertice a Trieste tra il governatore e i vertici delle forze di centrodestra per definire le rose dei nomi. In casa Fratelli d'Italia resta da sciogliere il nodo Basso Amirante. L'ex rettore De Toni batte Fontanini a Udine, il centrosinistra torna così a vincere dopo 10 anni. Oggi il tavolo decisivo sul futuro di Varzila. Ai sindacati, il governo dia un segnale forte. Al Ministero delle Imprese, il primo confronto tra azienda, istituzioni e parti sociali dopo la presentazione delle offerte per la sede di Bagnoli. Confindustria Friuli Venezia Giulia, in squadra i vice Agrusti e Chiara Valduga. Il primo consiglio di presidenza della federazione completa il giro di nomine. Tensione e riunione breve. Ora lavoreremo perché ci sia un clima positivo. Negata la perizia psichiatrica all'assassino di via Rittmeyer, la Corte rigetta la richiesta dei legali di Ali Kashim, il 22enne che aveva strangolato Robert Trajkovic. Missione conclusa per la nave rompighiaccio dell'OGS, dopo la spedizione da record rientra in Italia Laura Bassi. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre con la notizia dei vandalismi a scuola contro i bagni unisex, cartelli e adesivi affissi da gruppi studenteschi di estrema destra. Poi la notizia della vittoria del centrosinistra a Udine, mentre al centro c'è la foto della visita alla basilica del santuario irlandese di Knock da parte di Biden, il presidente Biden incantato dal mosaico spilimberghese. Infine le notizie di cronaca, insegnante di 68 anni colta da malore e trovata morta in casa a Pordenone. Una bomba inesplosa vicino alla strada, subito la bonifica a Maniago e compra all'asta la casa e scopre che l'immobile era stato confiscato, è successo a Brugnera. Il Gazzettino apre anche l'edizione di Pordenone con la vittoria di De Toni. Udine in controtendenza va a sinistra. Poi la cronaca, a Travesio i furti e la Molotov, il bullo patteggia e la battaglia legale, compra la casa all'asta ma le viene subito confiscata. Per la sanità, nuovo ospedale e i 18 milioni mai arrivati da Roma, mentre continua la polemica sulle aule fredde. Parigi attacca Meteo e PD. Di piede le polemiche per un intervento di Fiorello che nella sua trasmissione ha ironizzato su una storia di molestie avvenuta a Cordenons. Molestie e la rabbia per l'ironia di Fiorello. E poi lo sport con il Pordenone Calcio, nero-verdi, ultimi 90 minuti da thriller. Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, l'impianto Coveme spinge la rinascita dell'area industriale con la nuova linea 11. L'azienda lavora film in poliestere trasformato per isolare e rivestire e conta 170 lavoratori. Il 90% della produzione va all'estero, commesse in crescita. Affossata la commissione sull'attacco hacker dello scorso agosto, dopo oltre 2 ore di discussione in aula, la maggioranza ha votato compatta. Le opposizioni dicono nessuno crede ci sia stato dolo, ma ci vuole trasparenza. A Monfalcone, Casamazzoli libera dopo 16 anni, bando previsto a settembre, rimossi i ponteggi, l'impalcatura che la ingabbiava è ormai fuori norma, ricavati 19 appartamenti. Pronto tra un mese il nuovo ambulatorio dei medici di base a Ronchi. Il comune, in accordo con Asugi, mette a disposizione la sede di Via Duca d'Aosta 12. Infine lo sport al Solvay al Kosulic, calcio internazionale all'insegna della cultura e dell'ambiente, le 2 partite nell'ambito del torneo giovanile delle nazioni di Gradisca. L'Associazione Donatori Sangue di Trieste riprende a raccogliere le donazioni di sangue nel centro di raccolta mobile regionale nel parcheggio interno all'Università in Piazzale Europa 1 dalle 8.30 alle 13. Il palco del Politeama Rossetti di Trieste ospiterà alle 20.30 nella Sala Assicurazioni Generali un concerto spettacolo di solidarietà per le popolazioni di Turchia e Siria duramente colpite dal devastante terremoto. La serata di beneficenza vedrà alternarsi sul palco musicisti e performer del panorama artistico regionale che hanno deciso di mettere gratuitamente a disposizione la propria opera artistica. Parte dal Teatro Verdi di Pordenone la tournée internazionale della star olandese del violino Janine Jansen con la Camerata Salzburg, su un programma musicale interamente dedicato a Mozart. Per l'occasione Jansen suonerà il violino Stradivari del 1715, prestato da un benefattore europeo, alle 20.30. Doppio appuntamento nel circuito ERT per Lella Costa. Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, il titolo dello spettacolo diretto da Serena Sinigaglia, che andrà in scena questa sera al Teatro Verdi di Maniago e domani al Teatro Modena di Palmanova, entrambi i casi alle 20.45. A 10 anni dalla scomparsa della professoressa Edda Calvano, i suoi cantori desiderano ricordare le emozioni di musica e di vita condivise con lei nell'arco di 50 anni di attività e nel susseguirsi di diverse generazioni di allievi. Martedì 18 aprile alle 18 verrà celebrata a Sant'Antonio Nuovo una santa messa animata dalle sue ex voci bianche che hanno rappresentato la grande famiglia della maestra. Il rock friulano festeggia gli 80 anni di un grande protagonista della musica, Beppe Lentini, cantante e musicista che ha fatto la storia del rock and roll, non soltanto regionale. Questa sera alle 21 Lentini festeggerà il suo compleanno sul palco del Teatro Palamostre con un concerto. Lo spettacolo è a ingresso libero. La scienza e la discussione sul progresso tecnologico arrivano sul palcoscenico grazie a Big Data B&B, spettacolo che Laura Curino ha scritto con il contributo di un pool di docenti del Meta Network del Politecnico di Milano, in scena alle 19.30 nella Sala Bartoli del Politeama Rossetti di Trieste. Prima di 3 proiezioni speciali dell'Uomo senza colpa, alle 21.30 al Cinema Giotto di Trieste, alla presenza del regista Ivan Gergolet. Una serata per approfondire con l'autore e con lo scrittore e giornalista Pietro Spirito gli aspetti più emblematici e controversi del film, quali il conflitto sociale, la questione femminile, la vendetta di genere e di classe, la rimozione delle responsabilità, il perdono laico. I controlli sulle catene di fornitura e gli assetti organizzativi interni alle aziende saranno al centro della tavola rotonda Compliance, Competitività e Sostenibilità, che si terrà all'Università di Udine alle 12 in Sala Tomadini, in via Tomadini 30A. Al tavolo dei relatori diverse aziende porteranno la testimonianza e le best practice, in particolare in tema di compliance aziendale. Qual è il rapporto dell'immagine fotografica con la parola? Quando ha acquisito autonomia linguistica ed espressiva, emancipandosi dal ruolo ausiliario verso altre arti? Sono alcune delle domande alle quali la critica e storica della fotografia Roberta Valtorta risponderà ad Antonio Giusa, già docente di storia e tecnica della fotografia ed ex direttore di Villa Manin, nella presentazione del libro Chiedi alla fotografia, alle 17 a Palazzo Florio, a Udine. La rassegna Libri in Festa ospita oggi Vittorio Pierobon con Ecosfide, 20 storie di scelte alternative nel rispetto della natura. Dialoga con l'autore Maurizio Bait. Alle 18.30 nel Palatenda allestito a fianco dell'auditorium di Ronchi dei Legionari. A seguire lo spettacolo The Beat of Freedom con Marta Cuscunà in auditorium alle 20.30 e in replica alle 21.30. Il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste organizza Il Fegato, una vera opera d'arte. Incontro con il professor Claudio Tiribelli, direttore scientifico della Fondazione Italiana Fegato Onlus, a cura del professor Maurizio De Vanna, alle 17 nella sala conferenze della Biblioteca Statale Crise in largo Papa Giovanni XXIII. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelin D parlerà dei cambiamenti climatici che incidono anche sul settore agricolo. A seguire alle 11.20 andrà in onda Radar, Vivere con l'HIV e poi In cammino dal Carso al mare per promuovere la salvaguardia dell'ambiente. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Federico Comare e di Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con informazione regionale alle 12.30 con la seconda edizione del GR. A tutti voi grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.